Beh, anch'io vorrei concludere dicendo che esiste veramente del Lambrusco buono, che fa piacere berlo e che lo faccio io. No, beh, è che dovrebbe essere tutto così, ma invece si ha poi la fortuna, andando nei paesi rivieraschi del Po, passando o all'Idoenza o passando anche Gualtieri o il Casalone, di bere una buona bottiglia di vino, che fa sempre, che in allegria è sempre bello berla. Ecco qui. Se avete domande potete farle, non rispondiamo a tutto.